Progetto Portici, siamo qui con Camilla Roversi Monaco della Scuola di Restauro e ho coordinato parte del progetto. Ci vuole raccontare di che cosa si tratta, che cosa parla questo progetto? Ecco. Possiamo dire che innanzitutto coinvolge 5 corsi diversi dell'Accademia, perché non si tratta solo di noi di Restauro, ma anche di didattica dell'arte e del corso di design e anche di quello del cinema e dell'audiovisivo, e tutti insieme concorriamo a portare avanti questo progetto, evidentemente loro con l'obiettivo di valorizzare, di sensibilizzare alla tutela del patrimonio artistico, riferito didattica, e noi ovviamente restauriamo, noi di Restauro. Sono coinvolti anche gli studenti appunto dell'Accademia di Belle Arti all'interno di questo progetto, ovviamente. Come sono coinvolti? Ecco. Beh, oserei dire che sono i totali protagonisti, vengono da noi guidati, però di fatti i restauri vengono fatti assolutamente da loro, e questo vale anche per le altre attività. Le riprese vengono fatte da loro, un ebook bellissimo che è stato fatto per le scuole medie inferiori è stato ideato dai ragazzi unitamente ai professori, e cosa non da poco, il logo e tutto il naming, che ancora deve essere definita allo stato attuale, è ideato dai ragazzi di grafica. Si dividono in gruppi e solitamente, perché è la quarta edizione, viene scelto quello ritenuto più efficace. Grazie mille.